Il numero 2. Il secondo passo ci mette davanti a una scelta e a separare il mondo in cui vivevamo prima da quello in cui viviamo ora e in cui vogliamo vivere. Siamo nel chakra sacrale che è legato all'identità e al piacere in tutte le sue forme, permettendoci di lavorare sul senso di percezione di colpa e sull'ascolto del nostro sentire più profondo. Nei tarocchi è la lamina della papessa, l'accumulo, la gestazione delle energie, la saggezza e il silenzio. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi, al di là del precetto religioso patriarcale, la seconda virtù cardinale è la giustizia che mette sul piatto della bilancia ogni situazione, dividendola in due polarità. Dei peccati capitali, il secondo è la lussuria, che non è soltanto la brama incontrollata del desiderio sessuale, ma anche la frustrazione di mantenere il potere e il controllo in ogni ambito. La domanda che facciamo alle nostre guide è: cosa impariamo dalla dualità? Per Advaith, il secondo nome della Minne, la signora amore, è la luce, che insegna i comportamenti e le forme dell'amore, sia dal punto di vista umano, sia da quello divino. Questo tema le è caro in modo particolare e con il suo stile incalzante e raffinato sublima l'oscillazione tra i due poli estremi a cui l'amore porta, la mancanza e la fruizione, la presenza e l'assenza, il godimento e la desolazione, l'estasi e la devastazione. Nei canti Advaith scrive: come lo scorpione che mostra un bell'aspetto e poi crudele colpisce, come consola, così ferisce amore più che può e dopo atroci colpi guarisce. Consolazione e castigo insieme, questa è l'essenza del gusto dell'amore. Nei passi successivi vedremo come questo lamento d'amore diventerà unità. Intanto in questa fase è importante esperire la dualità, osservarla e sentirla dentro di noi. Siamo ancora smarrite, come coloro a cui si rivolge Marguerite. E stiamo nutrendo le nostre virtù legate all'ego, ancorate a noi stesse e alle nostre passioni. Perciò, per non cadere nelle trappole di Dama Ragione, tutte e quattro le mistiche consigliano di seguire l'esempio della vita di Gesù, anche quando non si è ancora preso coscienza del significato e della portata delle sue azioni. Per Advaith, questa luce è proprio la via verso Gesù, la più alta lezione della scuola dell'amore. In una visione, Gesù stesso le rivela che se vuoi assomigliarmi nella mia umanità, come desideri possedermi nella mia divinità e umanità, devi desiderare di essere povera, miserabile e disprezzata da tutti gli uomini, e tutti i dolori avranno un gusto superiore a ogni piacere terreno. La strada della nudità e della pura essenza è una discesa verso l'abisso, dove si scopre che ciò che ci rende ricche è il non avere alcun possesso. Questo è l'unico luogo dove può avvenire l'unione con il divino, nella semplicità, nell'assenza e nel vuoto che crea spazio per l'incontro con la divinità. La seconda maniera di Beatrice è il mettersi al servizio di Dio, senza interesse, senza misura e senza aspettativa. L'anima vuole solo compiacere, essere operosa ed accetta anche la sofferenza se questa è volontà divina. Essa pensa soltanto ad abbandonarsi all'amore, sebbene parleremo nel prossimo passo del servizio, questo modo di amare sottolinea la dedizione e l'accettazione verso ciò che ci aspetta, senza curarci di cosa sarà, ossia il vivere totalmente nel qui e ora. Nel secondo gradino dello speculum di Marguerite, l'anima prende in considerazione i suggerimenti divini, sforzandosi di, come scrive lei, agire al di sopra dei consigli degli uomini. E senza temere di perdere gli affetti, gli averi materiali e le volontà del corpo. Qui avviene il secondo salto nel vuoto, la seconda morte alla natura per rinascere allo spirito, alla ricerca di una vita spirituale nell'imitazione della via e dell'esempio di Gesù, restando cioè nel distacco, senza volontà propria e senza smania di appropriazione e di privilegio. Come per Advaith, anche nello specchio si parla della nudità dell'anima per indicare la nobiltà e l'assenza di volontà individuale. Per Margherita, infatti, la dualità sta nel descrivere il doppio movimento dell'amore. Se da una parte c'è il legame come forza d'attrazione, come abbiamo visto nel primo passo, il concetto chiave del miroir, dello specchio, dello speculum, sta nel movimento opposto e simultaneo, che è il distacco, ossia la liberazione da ogni passione e volontà identificati nell'io, per annullarsi, o meglio, come direbbe lei, per annichilarsi nell'amore assoluto che trascende anche la divinità stessa. In questo consiste la morte della natura per il risveglio dello spirito, liberarsi dalla dualità e dall'alterità e perseguire l'unità e l'essenza. L'identificazione dell'altra o dell'altro come diversa, diverso, staccata, staccato da noi, sta alla base dell'esperienza umana, che deve passare per il riconoscimento della propria totale malizia e dell'infinita bontà divina, perché solo accorgendosi di questa pochezza e distaccandosi dal giudizio e dall'egocentrismo si può fare spazio alla divinità in noi. L'anima, nello speculum, infatti, dichiara: contengo per mia propria natura quel che è malizia, sono dunque tutta malizia. E colui che è la somma di tutti i beni contiene in sé, per sua propria natura, ogni bontà. Dunque, egli, ella, è tutta bontà. La sua bontà è mia, a causa della mia necessità e a causa della giustizia, della sua pura bontà. Egli, ella, mi dona tutta la sua bontà, poiché io sono tutta malizia. Infatti, nulla meno del colmo dell'abbondanza di tutta la sua bontà può riempire l'abisso del fondo della mia propria malizia. Con questo mezzo ricevo in me dalla sua pura bontà, per bontà, tutta la sua divina bontà, e l'ho avuta senza inizio e l'avrò senza fine. Come già segnalato nella prima delle due classi dedicate alle mistiche, tenuta per la Scuola delle Donne il 12 dicembre 2021, di cui lasciamo il link in descrizione, il parallelo tra Marguerite Porete e la yogini Ma Gcig Lhab Sgron è davvero sorprendente. Al di là dello spazio e del tempo, gli insegnamenti del GCO di Yule e del Miroir si affiancano nel delineare una pratica del non attaccamento e di autoliberazione dal giudizio. Entrambe, infatti, suggeriscono che il cammino spirituale stesso può diventare una forma di attaccamento che ci allontana dalla fluidità del qui ed ora. Le seconde stanze del castello di Teresa de Avila sono meno buie delle prime. Si inizia a vedere e a sentire le creature che ci circondano, che nelle dimore precedenti si percepivano soltanto. Le tentazioni sono più forti ed è facile cadere in errore e tornare alle prime stanze. Perciò è necessario sviluppare fede, memoria, volontà e intelletto. Queste quattro virtù suggeriscono che nel nostro castello c'è già tutta la ricchezza di beni a nostra disposizione e non serve vagabondare nelle case altrui. Man mano che ci si avvicina alla mansione di Sua Maestà, l'anima inizia a sentire l'invito verso la bontà e l'amore divino e desidera la sua compagnia. Lo sposo invia all'anima il suo invito tramite simboli o eventi con un significato personale molto forte, come parole udite da persone virtuose o lette in buoni libri, come accadde ad Edith Stein leggendo proprio il castello interiore, ma anche tribolazioni e malattie. La sofferenza cresce di pari passo all'amore, nell'assenza del giudizio e conformando la propria volontà a quella divina, che ben conosce ciò di cui abbiamo bisogno. La dolcezza verso se stesse aiuta a perseverare nel raccoglimento, nell'orazione e nell'ascolto di sé, attitudini che attingiamo da persone esperte che ci fanno da esempio. La perseveranza di continuare il cammino verso l'amore e la bontà è fondamentale, perché qui ci troviamo a considerare sempre più la nostra miseria umana. Ciò che Teresa chiama miseria umana può essere visto in diversi modi. Da un punto di vista dottrinale, questo termine è una derivazione della cultura del peccato e del rifiuto del corpo che ben conosciamo, ma se proviamo a guardare da un punto di vista spirituale, esso rappresenta l'opprimente realizzazione di agire seguendo la nostra importanza personale, considerandoci sempre dalla parte del bene e della giustizia. Siamo misere perché ci crediamo superiori, vivendo costantemente nel paragone e nel giudizio. In questo modo, senza accorgercene, ci mettiamo in gabbia con le nostre stesse mani. Questa realizzazione è una dolorosa stoccata per l'ego, perché ci chiede di scendere dal piedestallo in cui ci siamo autoproclamate migliori, ma allo stesso tempo ci permette di guardare negli occhi chi ci sta di fronte alla pari, rendendoci parte del tutto. Anche Edith Stein nel Castello dell'Anima suggerisce l'importanza di staccarsi dalle gratificazioni che nutrono l'ego per imparare ad interfacciarsi con il divino in modo autentico. Da questo punto di vista, il concetto di miseria di Teresa si avvicina a quello di mancanza di Advaith e di malizia nello Speculum di Marguerite. Come vedremo nel passo successivo, siamo misere e fragili perché siamo umane e quando non agiamo nell'amore, siamo manchevoli e lontane dalla fruizione della bontà universale. Inoltre, Marguerite sembra voler sottolineare che l'essere umano agisce per natura nell'imperfezione e nell'inconsapevolezza. Questo atteggiamento può essere portato alla luce tramite un cammino interiore profondo, alla ricerca dell'amore, in cui la bontà e la pace non sono affatto scontate, ma sono da conquistare quotidianamente dentro di noi. Trascendere la dualità sarà il compito del quinto passo. In questo momento ci viene chiesto di vivere la dualità con consapevolezza, riconoscerla e sperimentarla in ogni sua sfaccettatura. Solo facendone esperienza cosciente capiamo la nostra vera natura umana e possiamo accettarci per ciò che siamo, anche se non ci piace quello che vediamo. Si inizia a delineare in noi la consapevolezza che questo cammino non è una gara chi arriva prima al gradino più alto, ma è un percorso evolutivo che trascende la materia e che dura una vita intera, alla ricerca di noi stesse e dei nostri moti interiori. In costante cambiamento. Beatrice e Teresa ci suggeriscono di continuare il cammino nella perseveranza e nella compassione, soprattutto verso noi stesse. L'amore che ci ha chiamate e attirate a sé in questa fase espone ed esalta la nostra nudità, la nostra fragilità e il nostro smarrimento. E questo passaggio è fondamentale per liberarci dalle sovrastrutture in cui siamo quotidianamente immerse. Il percorso è lungo, ma ci viene chiesto di guardarci negli occhi con coraggio e consapevolezza, accettando, senza giudizio e senza vergogna, il nostro essere nella sua vera essenza.